l'altra Europa. C'è un'Europa che vale la pena raccontare, lo facciamo qui ogni sabato all'Altra Europa, cerchiamo di darvi altri punti di vista. Un buon sabato da Federico Taddia, in diretta dagli studi di Milano di Radio 24. In diretta potete intervenire via sms al 349-238-6666 oppure attraverso le nostre pagine ufficiali in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, dove aggiorniamo la pagina continuamente inserendo tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Un programma in collaborazione con Euronet Network di radio europee, appunto per respirare una cultura europea, questa Europa fatta sì di palazzi, di leggi, di norme, ma anche di storie. Sono le storie che ci piace andare a cercare per avere sfaccettature diverse del nostro continente, della nostra Europa unita. Oggi partiamo dalla televisione e partiamo dalla televisione greca. Αγαπητή Άννα, θέλω να προσκαλέσω εσάς και τους γονείς σας στο σπίτι μας την άλλη Κυριακή. Μετατιμής Ανδρέας Βανδουλάκης. Το αποφάσισες να πάρεις την κόρη του ψαρά. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και σε κρυφό καμάρι. Βανδουλάκης είναι un trailer, immaginatevi qualcosa che sta, che ne so, tra un posto al sole e una qualsiasi fiction in onda. Di là mi dicono no, un posto al sole è meglio. No, no, parliamone. Il trailer che state sentendo è il trailer di una produzione televisiva, Tunisi in greco, L'Isola, che è il fenomeno televisivo del momento. Pensate che a punte di share del 60%, il 70% tocca tra i giovani, un fenomeno che è raccontato sul sito Osservatorio Balcani e Caucaso dalla giornalista Gilda Ligunis, che ha proprio ha fatto il focus su questa serie televisiva che è metafora di quello che sta accadendo in Grecia in questi mesi. E Gilda è qua con noi. Ciao Gilda, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio 24. Allora, vorrei chiederti la trama, adesso senza entrare nei dettagli. Che cos'è questa isola, questo Tunisi? Tunisi è l'isola, appunto, non c'entra niente con Siria, tipo il posto al sole. Parla di un'isoletta, Spinalonga, che è al largo dell'isola di Creta e che dagli inizi del 1900 fino al 1957 è stato un ex lazzaretto, cioè i luoghi dove venivano rinchiusi per sempre i lebbrosi, i malati di lebbra. Quindi sembra un argomento assolutamente lontano, no? Lontano dall'interesse, dall'attualità, insomma. In realtà questi lebbrosi chiusi lì dentro lottavano per vivere al meglio la loro condizione. C'erano amori, c'erano bambini che nascevano, questo anche nella realtà è una storia vera questa, e quindi questo 5 milioni di greci incollati alla televisione per il primo episodio, calcoliamo che in Grecia gli abitanti sono 10 milioni, quindi uno su due, guardano una storia che parla del proprio passato, perché la storia di Spinalonga è vero, ma un passato doloroso, ma che in qualche modo dà speranza, perché questi lottavano per vivere, e in qualche modo ricorda questa Grecia vista un po' come appestata adesso dal resto d'Europa a causa della propria crisi economica, ma che vuole lottare per vivere, per risorgere. Certo, quindi insomma questa isola di Spinalonga, appunto, isola che esiste di fronte a Creta, tra l'altro so che tu sei proprio di quelle zone, vero? Quindi la conosci davvero bene, quest'isolotto diventa un po' metafora per i greci della situazione che stanno vivendo. Però è tra l'altro tu fai una riflessione non male, cioè dici in tempo di crisi la televisione rimane l'unico svago. Si sono veramente aggrappati a questa serie televisiva come, non ti dico come ultimo scoglio, ma quasi? Ma diciamo che non è proprio così, perché se chi legge il giornale sa che in Grecia negli ultimi mesi c'è uno sciopero generale via l'altro, quindi la potenza, la rabbia contro la crisi, il pacchetto anticrisi voluto dal governo, il taglio alle pensioni, agli stipendi rimane. Però il fatto che lunedì sera tutti si accendono la televisione è un è un segnale, nel senso che innanzitutto questo serial è costato moltissimo, circa 4 milioni di euro in un momento di crisi, è tanto, sì. Ed è una delle poche diciamo realizzazioni di qualità. Infatti, guardando i commenti, sono 300.000 fan di Facebook solo su questo, legati a questo serial, 31.000 visualizzazioni su YouTube per ogni episodio, quindi c'è proprio una mania per questo serial. E si dice appunto che questo serial ci dà coraggio in un tempo difficile, sì. E dimostra che noi non siamo un popolo che accettiamo di essere sommerso dai rifiuti. Rifiuti sia televisivi, tanto per dare un'idea, 70% di scelta, Tony sì, a questo serial sull'isola, e mentre il Grande Fratello è crollato al 9%, quindi la cosiddetta TV spazzatura. Esatto, insomma, si riconoscono in più in questa storia anche epica. Allora, intanto volevo dare il sito, che è balcanicaucaso.org, per leggere il tuo articolo, e da lì ci sono anche i link per vedere un po' di trailer, sì, di questa, sì, serie, che abbiamo già caricato anche nelle nostre pagine in Facebook. Tra l'altro il regista è un cretese, che anche questa è, insomma, una cosa particolare, no? Un cretese sconosciuto a cui però è stata affidata la regia. Chi ha voluto proprio il serial nasce in realtà da un bestseller scritto da una scrittrice inglese, che è Victoria Hyslop, e la quale ha preso da anni casa a Creta, conosce la Grecia ed è stata affascinata dalla storia vera di Spinalonga, e quindi ha raccontato questa saga familiare, cioè questa giovane inglese che va in un viaggio di iniziazione, no? A, sì, Creta, armata solo di una vecchia fotografia. La madre non ha voluto raccontarle niente del suo passato greco, e inizia così dicendo: avete visto, conoscete, questi sono i miei nonni. Allora: sì, ma tua mamma non ti ha detto niente dell'isola? Quale isola? Creta? No, l'isola di Spinalonga, quella degli Ebrosi. E allora dice da lì tutta la... E già lì 5 milioni di greci non davanti alla televisione. C'eri anche tu la stai seguendo? Sì, sono seguendo abbastanza, è molto commovente. Sei in target anche tu, quindi. Ok, grazie davvero Gilda per averci raccontato e riportato la tua esperienza. Ricordiamo ancora il sito balcanicaucaso.org, sito dove tu collabori e hai fatto questo bel pezzo. Ciao, grazie, buon sabato. Grazie. Ciao. E un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Premiate la vostra scuola con un video. Vincete un premio per la vostra scuola o la vostra università realizzando un film promozionale per l'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea. L'Ufficio delle Pubblicazioni è l'organo che edita i documenti istituzionali dell'Unione Europea. Fornisce diretto e libero accesso a pubblicazioni ed appalti tramite alcune sue strutture. Ora l'Ufficio chiama in causa la creatività e le abilità tecniche dei giovani che studiano materie di comunicazione per la produzione di corti divertenti e piacevoli per promuovere i suoi servizi. Il concorso è aperto a tutti gli istituti scolastici con sede in uno dei 27 Stati membri dell'Unione Europea. Si vincono premi dai 1.000 ai 5.000 euro. Termine ultimo per presentare le iscrizioni è il 17 gennaio 2011. Maggiori informazioni si possono trovare su publications.europa.eu. L'altra Europa. L'altra Europa. Entriamo a Bruxelles. Lo facciamo insieme ad Euronet. Ogni settimana scegliamo un argomento comune, dove ogni radio del network europeo cerca di raccontare questa situazione, questo momento, questa attualità, portando diversi contributi. Questa settimana parleremo di un argomento che ci tocca, perché da pochi giorni, anche se di fatto tutto ciò verrà attuato solo all'inizio del 2012, anche noi cittadini europei potremo dire la nostra, perché è stato approvato un primo progetto di partecipazione diretta dei cittadini alle scelte europee. Si chiama diritto di iniziativa dei cittadini europei, è una sorta di possibilità di istituire dei referendum per fare proposte, anche proposte legislative. Per affrontare questo argomento abbiamo convocato un esperto in materia, ci siamo sentiti già qualche mese fa perché lui aveva anticipato quello che sarebbe accaduto da lì a poco nel Parlamento europeo. È un economista e ricercatore sociale di Bolzano, si chiama Thomas Benedikter, autore di un bellissimo libro intitolato Più democrazia in Europa, proprio per parlare di tutti quegli strumenti che i cittadini possono avere e soprattutto potranno avere in mano per essere più incisivi anche nelle scelte dell'Unione Europea. Diamo quindi il benvenuto a Thomas Benedikter. Ciao Thomas. Buongiorno, ciao. Ciao, grazie. Ciao a tutti. So che tra l'altro ti abbiamo disturbato durante un convegno, però insomma oggi dovevi esserci, perché credo che tu attualmente a livello europeo, non solo italiano, sia uno dei massimi esperti in materia, quindi sei la persona migliore che ci può un po' grazie. Illuminare. Non credo. Allora, Thomas, intanto che cos'è questo ICE che è stato approvato da poche settimane dal Parlamento europeo? Un mese fa, infatti, il Parlamento europeo ha approvato le regole di applicazione di questa ICE, per insomma dirla così con questo acronimo. È il primo strumento politico per far sentire la voce dei cittadini a Bruxelles. Ed è stato voluto dai paesi membri, dai politici, quindi è stato inserito nel Trattato di Lisbona, entrato in vigore in dicembre del 2009, quindi un mese fa esattamente il Parlamento ha approvato queste norme. Purtroppo l'applicazione effettiva, cioè le prime ICE concrete, le vedremo solo l'anno prossimo, perché adesso è stato lasciato un anno di tempo ai paesi membri, ai governi, per rendere poi applicabile anche con il proprio diritto nazionale questo strumento. Certo. Insomma, di democrazia diretta. Che in pratica come funzionerà? Dà il diritto a almeno 1 milione di cittadini europei, sì, dell'Unione Europea, provenienti da 7 paesi almeno, di presentare una proposta alla Commissione europea, una proposta di normativa. Forse, io penso è risaputo che a livello europeo è la Commissione che fa le leggi, non naturalmente il Parlamento ne discute, ma sì, la Commissione è l'organo che produce, che insomma disegna e propone le leggi, la normativa, e quindi anche questa proposta dei cittadini si rivolge prima di tutto alla Commissione europea. Certo, e quindi insomma 1 milione di firme raccolte in almeno 7 nazioni, firme che potranno essere anche raccolte online, che mi pare sia un bel passo avanti. E tu ritieni che sia uno strumento già sufficiente per poter incidere nelle scelte del governo europeo? Sicuramente no, sicuramente è un inizio di partecipazione dei cittadini alla politica europea che ci voleva. Bruxelles è lontana, credo che noi tutti sentiamo la politica europea come qualcosa di distante, su cui insomma non si può incidere veramente come cittadini. E questo problema bisogna affrontarlo, e questa ICE è un primo passo, ma sicuramente non potrà essere l'ultimo, perché sappiamo anche che i cittadini poi hanno un potere in politica solo se hanno anche l'ultima parola attraverso il referendum. E proprio questa è la lacuna, la mancanza più grande, che questa ICE non porta ad un referendum europeo, come molti insomma lo auspicano. Bisogna ricordare che una democrazia diretta efficace richiede due strumenti, che sono il referendum facoltativo, confermativo, noi l'abbiamo in Italia solo per le modifiche alla Costituzione, e l'iniziativa popolare, sempre due strumenti che portano poi in fin dei conti ad una votazione popolare. In questo caso con l'ICE non c'è ancora, e quindi insomma è solo uno strumento per mettere qualche argomento urgente, qualcosa che preme, sull'agenda della Commissione europea, e sperando che la Commissione poi la accetti. Ecco. Però insomma, così potenzialmente è affascinante l'idea che 500 milioni di persone, perché questa è la popolazione attualmente dell'Unione Europea, possano muoversi insieme per ottenere qualcosa, no? Effettivamente, io sono assolutamente convinto che funziona. Ci sono già una ventina di ICE, diciamo, come progetto pilota che sono state avviate da parte di organizzazioni varie, che parte dalla, per esempio la questione delle OGM, la patata geneticamente modificata, oppure la questione della sede doppiata dell'UE che costa tanti soldi, che c'è questo il Parlamento che fa la spola fra Strasburgo e Bruxelles, costa ogni anno 200 e più milioni di euro. Sì. Quindi tutta una serie di questioni che sono urgenti, e anche dei cittadini, gruppi di cittadini che aspettano solo il momento per portare avanti un'iniziativa del genere. E quindi è proprio una cosa anche richiesta che servirà anche per renderci conto quanto la politica comunitaria pesa nella nostra vita quotidiana. Certo. E più democrazia per l'Europa non è solo un'invocazione, ma anche il titolo di questo libro di Thomas Benedicter, è pubblicato da Arca, e dove non parli solo di ICE, ma anche di altri strumenti che i cittadini potrebbero avere in mano. Tra l'altro, un libro, siccome Benedicter fa della divulgazione della cultura una missione, libro che è scaricabile gratuitamente in internet, è una lettura interessantissima e non per addetti ai lavori, quindi vi consiglio davvero di scaricarvi questo libro. E abbiamo messo già il link nella nostra pagina in Facebook, oppure lo trovate sul blog paolomichelotto.it, da lì ci sono tutte le modalità per scaricarvelo veramente velocissimamente, per fare un tuffo in questa forma di democrazia che avremo tra le mani tra pochissimo, e per veramente viverla come una opportunità. E, Thomas, il prossimo passo quale sarà? È vero, c'è un anno di tempo adesso per rendere attivabili queste ICI, e poi cosa ti aspetti? Naturalmente dovrà essere assolutamente una fase in cui i cittadini potranno fare l'esperienza che questo strumento funziona. Sì. E quindi servirà per far presente a tutti che insomma c'è la politica europea, che conta moltissimo, che non è lontana, ma che è fatta da politici, da noi eletti in qualche modo, che su cui noi possiamo anche incidere. Però naturalmente dopo qualche ICE concreta ci accorgeremo che non basta, perché le cose vanno così in politica: se non c'è una pressione dal basso, allora non va avanti. Quindi il passo successivo sarà quello di fare pressione affinché venga istituita anche l'iniziativa popolare europea, sì, il referendum facoltativo europeo, con legato ad una votazione europea. Aggiungerei che, a parte questi strumenti di democrazia diretta, ci vorrebbe anche una riforma più profonda dell'assetto rappresentativo. Anche questo va migliorato. È risaputo che il Parlamento europeo non è ancora un Parlamento a tutti gli effetti, ma ci vuole ancora molto più competenze, più forza per rendere questo sistema politico europeo effettivamente più democratico. Certo, insomma, che anche il tuo lavoro di ricercatore. Grazie davvero, ricordiamo, Più democrazia per l'Europa, il libro di Thomas Benedicter, scaricabile da internet, trovate il link nelle nostre pagine in Facebook. Ciao Thomas, grazie, buon lavoro. Tanti grazie a voi, grazie, buongiorno, ciao. Ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa. Europost-it. Un corso per Europrogettare. Un'idea nel cassetto e pochi fondi per metterla in piedi? Se l'idea è buona, i fondi stanziati dall'Unione Europea possono aiutarvi. Basta partecipare ai bandi giusti. C'è anche un corso dove si insegnano le tecniche migliori per costruire i propri progetti in linea con le norme comunitarie, partecipare ai bandi d'assegnazione dei fondi ed ottenere facilmente l'assegnazione. Il training base di Europrogettazione si tiene a Roma dall'1 al 4 febbraio e c'è tempo fino al 21 gennaio per iscriversi. Più informazioni su obiettivoeuropa.it. The social network is fairly easy because you can also have discussions, you can put what you want in a very short expressed view on it. You could get immediate results by people saying I like it, don't like it, or putting their comments. The way I use social media is really le voci che state ascoltando di sottofondo fanno parte di un convegno che c'è stato a Bruxelles qualche giorno fa. Rimaniamo un po' nel campo della partecipazione diretta dei cittadini, di queste nuove forme di interazione tra noi lettori, tra noi che l'Europa la viviamo e chi a Bruxelles invece l'Europa la guida. E Butterfly Europe è stato il titolo di questa giornata, mercoledì 12 gennaio, promossa dallo spazio della politica.com, un network, un cenacolo di pensatori, di amici che vogliono portare una cultura nuova europea. E tutta la giornata è stata raccontata in diretta anche dalla web TV altratv.tv. E quello che è successo a Bruxelles in questa giornata, dove intitolata Cittadini Europei 2.0, come internet cambia la politica europea, ce la racconta Antoine Bargas, uno degli organizzatori, uno che c'era e uno che ci crede in questa nuova forma di partecipazione attiva. Ciao Antoine, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, grazie per l'invito. Antoine, cosa è successo in questa giornata in cui avete giocato con il 2.0? È andata molto bene, c'era 80 persone e più 500 per connessioni. C'era un dibattito molto vivo. Mm-hmm. E qual è stato un po' il cuore del dibattito? Nel senso che vi siete chiesti, è possibile anche costruire un'altra Europa, sì, diciamolo, attraverso internet? Come internet sta modificando anche i rapporti tra i politici e i cittadini? E quali sono state le risposte che avete colto, che avete trovato? Ma le risposte... stiamo parlando di nuove tecnologie, ma oggi le nuove tecnologie non ci stanno aiutando. Richiamiamo al volo Antoine. Intanto vi ridò il sito se volete conoscere le attività dei ragazzi del team dello Spazio della Politica, www.lospaziodellapolitica.com. Da lì trovate i vari link relativi alla giornata, ma relativi anche alle altre attività che stanno portando avanti a livello europeo. Vediamo un po' se riusciamo a ritrovare Antoine. Stiamo insistendo e abbiamo un Europostit. Intanto possiamo spezzare l'attesa dandovi un'altra delle nostre indicazioni. Sono le dritte che troviamo in giro per l'Europa e che vi offriamo. Prendete nota perché anche queste sono opportunità. Europostit. Anche i professori si scambiano. Non solo gli studenti, ma anche i professori possono fare un'esperienza all'estero. Il progetto Comenius permette ai futuri insegnanti di qualsiasi disciplina di trascorrere un periodo dalle 13 alle 45 settimane in una scuola di un altro paese. Gli insegnanti potranno affiancare i docenti locali durante le ore di lezione e spesso insegnare la propria madrelingua. Si può scegliere il paese a cui essere assegnati e anche il tipo di scuola. Le candidature vanno presentate entro il 31 gennaio 2011. Trovate più informazioni su www.programmallp.it nella sezione Comenius. Anche tutti questi link nelle nostre pagine in Facebook, nel nostro sito radio24.it. Antoine, proviamoci, ci sei? Sì, scusa. Niente, il tasto rosso di solito spegne il cellulare, non devi premerlo, sappilo, no, scherzo. Allora, quali sono state le risposte che avete trovato? Quindi, abbiamo trovato molte risposte diverse secondo l'interlocutore. I deputati europei erano davvero molto felici di avere alcune parole nuove della gente, dei blogger. Ascolta, ma da quello che hai capito tu, lì c'erano un po' di politici, un po' di parlamentari europei, loro sanno utilizzano questi nuovi media, queste nuove forme di comunicazione con i cittadini e soprattutto ottengono risorse, ottengono stimoli? dire la verità, dipende davvero dai politici. C'era un division divide tra un approccio più progressista, più aperto alla rete, per esempio di alcuni liberal democratici tedeschi oppure dei Paesi Bassi, e oppure c'era un approccio molto più conservatore, molto più chiuso da una deputata della sinistra francese. Quindi dipende davvero di chi. E i blogger, i navigatori, un po' chi smanetta insomma col computer, a volte anche fanno un po' paura, no? Perché sono meno controllabili, diciamo. C'è timore, cioè, questi cittadini così attivi, così attenti, un po' spaventano i politici a livello europeo? Sì, certo, però anche i deputati europei, anche le persone della Commissione, del Parlamento, hanno bisogno di un nuovo approccio, hanno bisogno di apertura, hanno bisogno di questa parola che chi può dire anche di no alcune volte. Quindi sono loro a chiedere più opinioni. Mm-hmm. E avete portato anche a altri modelli televisivi, web TV e non solo, anche questa viene vissuta potenzialmente come una risorsa, come un qualcosa di nuovo per raccontare anche in altri modi l'Europa? Certo, certo, per raccontare l'Europa, ma anche per raggiungere la gente a livello locale, che non si può raggiungere a livello di Bruxelles, diciamo. Quindi anche le TV locali, ma anche le TV su internet, certo, sono tutti mezzi molto utili. Antoine, grazie davvero per averci portato un assaggio di quello che è successo a Bruxelles. Ricordiamo lo spazio della politica.com e da lì c'è il link diretto sia sulle altratv.tv e sulla giornata di Butterfly Europe. In bocca al lupo per le vostre attività, insomma, continuate grazie. Così che c'è bisogno di muoverla un po' questa Europa, ok? Grazie. Ciao, grazie, ciao Antoine. Bene. Ciao, buon sabato. Ciao. E con questa musica ci avviamo verso Sarajevo. Valentina, ci vuoi vuoi fare un attimo la DJ? Cosa stiamo ascoltando? Buongiorno, state ascoltando YKV, Caterina Velika, un gruppo belgradese, un gruppo cult dell'ex Jugoslavia, e questa canzone ha vinto fra le preferite, okay. Ancora qualche anno per noi, è una canzone premonitrice dell'89 che parla di quello che succederà e della fine di tutto. Stavamo parlando prima di emozioni e di passione, credo che la storia di Valentina Pellizzer, che è qua con noi in collegamento da Sarajevo, insomma, tutta la tua storia è legata alla passione, passione per un popolo, passione per la promozione dei diritti civili e non solo, insomma, adesso ci racconterai anche la tua storia e l'attività che stai facendo. Tu sei, insomma, dopo anni di lavoro nella cooperazione internazionale nell'area balcanica, ormai da quanti anni vivi a Sarajevo? Siamo entrati nel 12° Nel 12° anno, tu calabrese, ma ormai hai perso completamente il tuo accento calabro. Si sente nella C che pronunciano i miei figli, anche se sono nati qua. E adesso coordini una fondazione importantissima lì nell'area balcanica, dove insomma il focus è proprio quello della promozione dei diritti civili, giusto? Però lo fate con una chiave molto moderna, perché anche voi lo fate partendo dai new media, dalle nuove tecnologie. Sì, noi siamo un'associazione virtuale, nel senso che siamo registrati qua in Bosnia Erzegovina, ma siamo un gruppo di 9 persone che stanno in Macedonia, in Serbia, in Croazia, in Kosovo, e la nostra attività principale è un portale in 4 lingue: inglese, croato, bosniaco, montenegrino e serbo, albanese e macedone, e parliamo di quello che fa la società civile, di quello che fanno gli attivisti, le attiviste, dei temi che hanno, e questo è il nostro ruolo di media. E poi cerchiamo di fare formazione per far sì che le associazioni, gli operatori, ma anche insomma le persone singole possano utilizzare soprattutto internet per avere voce, per scambiare informazioni, per dare idee. E Valentina, vuoi darci il link per raggiungervi direttamente? www.oneworldsee.org. Insomma, poi voglio, insomma, ti voglio chiedere anche qualcosa nello specifico sulle attività formative che fate, però come sono entrati i Balcani nella tua vita? Perché Sarajevo è diventata la tua casa? Perché nel 92, anzi nel 91, quando sono cominciati i disastri nell'ex Jugoslavia, io studiavo, era estate, non riuscivo a capire che cosa succedeva dall'altro lato del mare, soprattutto perché c'era tanto silenzio fra la società civile italiana che non sapeva che posizione prendere. Sì. E poi perché è stata purtroppo, soprattutto nella Bosnia ma anche in altri luoghi, la guerra contro le donne, contro i corpi delle donne. Io sono da sempre una femminista e quindi questa è stata la mia causa sociale, era qualcosa di cui non riuscivo a liberarmi. Sono partita e sono andata con una ONG italiana del sud Italia, il CRIC, in Croazia, a Rijeka, Fiume, a lavorare. Quello che doveva essere un'esperienza, uno scambio, è diventata la mia vita. E oggi, poi da lì è stato tutto facile. E oggi, 12 anni dopo, cosa significa vivere a Sarajevo, comunque una città che è una città simbolo, una città che è metafora di tanto, una città che è anche esaltazione delle contaminazioni, però una città che è lì nel cuore di un'area ancora difficile, complicata? Sarajevo è un sud nella sua accezione più assoluta. Io, insomma, il CRIC mi aveva insegnato che andavamo a fare cooperazione sud-sud. Sì. Come dicevamo noi, così due sud sfigati che si incontrano e cercano di scambiarsi pratiche di resistenza. E Sarajevo è un sud nella sua accezione più incredibile, ma anche più, se vuoi, doloroso, perché comunque sì, è tutt'oggi un paese molto diviso, con un grosso nazionalismo, però è anche è un paese magico. Per me in qualche modo è stato forse trovare casa, no? Non è che nasciamo tutti là dove pensiamo di restare tutta la vita. Penso che Sarajevo, i Balcani, questo è il modo dell'essere balcanici, è qualcosa che mi corrisponde, è una contraddizione continua e soprattutto un senso dell'umorismo nero che sì. Riesce a trasformare, a dire quello che non si può dire, quello che non puoi vivere, perché non puoi vivere di corruzioni, di scandali, di violenze, di abusi, però ne puoi ridere, ci puoi scrivere, puoi fare film, puoi fare performance teatrali, e questo secondo me è il grande spirito di questa città. Quindi una sorta di sano cinismo, diciamo, di ironia che ti permette di sopravvivere. Sì, ironia che rasenta il sarcasmo. Ho capito. Valentina, hai usato questa parola, nazionalismo, che so che insomma è una delle vostre battaglie, legate soprattutto ai social network, all'arrivo anche lì potente di Facebook, per esempio. Cioè, Facebook è un canale che alimenta il nazionalismo? Alimenta il nazionalismo, però anche... Devo dire, per la Bosnia, oggi la Bosnia ha più di 800.000 users di Facebook. Sì. Per un paese che ha più o meno 4 milioni di abitanti, che non ha una grossa penetrazione internet, vuol dire che almeno una persona in ogni famiglia ha già il suo profilo. Facebook porta nazionalismo, però devo dire negli ultimi 2-3 anni forse è stata il grande volano per far aggregare le persone e far parlare una lingua diversa. Quindi proprio la possibilità di usare internet per fare una nuova cultura è quello che... Sì, per poter parlare, per potersi incontrare con i propri simili, perché è molto difficile ovviamente in tutti i paesi dove hai subito tanto, dove comunque sei in una continua transizione con piccole elite che però gestiscono tutto. Internet ha offerto questo spazio sicuro dove le persone hanno potuto anche incontrarsi, parlare e cominciare a costruire delle relazioni che fossero un po' anche al di là della tradizionale, se vuoi, associazione. Le associazioni qua sono nate all'inizio come associazioni umanitarie per rispondere a dei bisogni molto concreti, quindi la visione politica è tutta una cosa che si sta costruendo oggi. Io lo dico, insomma, c'è una nuova forma di associazionismo che nasce proprio da bisogni politici, che può essere dal salvare i cani che altrimenti verrebbero, come dire, uccisi perché i cani randagi, perché non c'è un posto dove alloggiarli, a temi molto più difficili come la delinquenza minorile, come i diritti delle persone, come i diritti delle popolazioni gay, lesbiche, certo, e così via. Valentina, grazie davvero. Un'ultima domanda, insomma, in questa Sarajevo che ci ha raccontata, mi piace molto l'immagine, insomma, questa esaltazione anche del sarcasmo, però c'è ancora spazio per i sogni? Oh, certo. Okay. Noi sogniamo sempre, anche perché come dicono qua, i sogni servono per resistere non soltanto la notte, ma soprattutto durante i giorni. Grazie Valentina, grazie davvero, ci ritroveremo sicuramente all'Altra Europa. Ciao! L'Altra Europa. Continua il nostro viaggio attraverso la nostra Europa, questa altra Europa che ci piace raccontare con mille voci diverse, ed è un filone anche che seguiamo, è quello degli italiani che vivono all'estero, ma non solo, lì scelgono di raccontare la propria quotidianità, quello che vedono, quello che vivono, quello che respirano attraverso dei blog. Oggi andiamo a Madrid con il blog viveramadrid.it, che è una bellissima fotografia della città, fotografia realizzata da un'italiana che sì, è italiana, e la la sua italianità non la nasconde, ma vuole vivere Madrid e la Spagna insieme agli spagnoli, quindi non vuole fare la solita comunità degli italiani che si ritrovano all'estero. Lei vuole respirare, vuole assorbirsi in questa cultura, e questa cultura però la racconta e la tratteggia molto bene nel sito. E diamo quindi il benvenuto a Francesca Nuzzacco. Ciao Francesca. Ciao. Ciao. Viveramadrid.it, ho trovato la tua storia sul sito vogliovivere.com, che è un bel punto di ritrovo, no? Per chi decide a un certo momento della propria vita di questa vita cambiarla, no? Svoltarla. Sì, esattamente. La tua curva ti ha portato verso Madrid dopo tante altre città che hai toccato. Cosa fai a Madrid? A Madrid mi occupo di programmi di affiliazione. E quindi lavoro nell'ambito della pubblicità online, banner e insomma queste cose qui che adesso vanno molto di moda. Ok. E però insomma, confessiamolo, questo è quello che ti permette di mangiare, diciamo, di campare. In verità tu sei lì per assorbire questa cultura spagnola e rilanciarla poi in rete. Perché un blog, come è nata l'idea e soprattutto cosa cerchi di trasmettere, di trasferire su questo blog? Ma in realtà quando venni a vivere a Madrid non conoscevo quasi nessuno, perché mi sono trasferita per amore e quindi avevo quel mio ragazzo, però non conoscevo nessun altro. Per cui ho sofferto molto la solitudine, non sapevo bene come gestire il mio tempo e pensai che il blog poteva essere uno strumento interessante per spronarmi a conoscere la città, quindi a muovermi di più, a scattare delle fotografie, a vivere di più la città, però anche a comunicare. E quindi da questo bisogno, diciamo, di comunicazione è nato il blog, che poi si è trasformato in un modo per socializzare, perché in realtà poi ho incontrato molta gente tramite il blog e mi sono resa conto che è uno strumento molto utile per tutti coloro che vogliono venire a vivere a Madrid, ma anche per coloro che vogliono conoscere la Spagna, perché sì, credo che in generale si pensi che la Spagna sia molto simile all'Italia, ma secondo me è un pensiero un po' così sbagliato, perché quando si conoscono entrambe le nazioni bene si capisce che sono due mondi completamente diversi. Ecco, le differenze sostanziali o quelle che tu hai, quelle che più ti hanno colpito, ce le puoi riassumere? Qual è la Spagna che hai scoperto? Bah, come diceva una mia amica qualche giorno fa, la differenza centrale sta nel caffè e nella birra. Cioè, per gli spagnoli la birra è quello che per noi è il caffè. Noi, quando non sappiamo, poi andiamo al bar e prendiamo un caffè per 70 centesimi, qui si va al bar, si prende una birra per un euro, e quindi da questo viene la differenza centrale. Cioè noi siamo sempre stressati, sempre agitati, e invece gli spagnoli sono sempre allegri e se lo passano bene, come dicono loro. E quindi proprio un modo di vivere diverso, più rilassato, più allegro, e da qui insomma una serie di differenze negli orari, nel modo di mangiare, nel modo di vestirsi. Credo che la Spagna sia una nazione più libera dell'Italia. Questo non vuol dire che sia una nazione migliore, perché io a volte ho molta nostalgia del mio paese natale, però si sta molto bene qui, è molto divertente. Ecco, c'è un po' il mito di Barcellona in Spagna, tu hai scelto Madrid, che città è Madrid oggi, cosa offre? Al di là, anche lì ci sono molti italiani, però sì. che città è in questo 2011 Madrid? Dunque, diciamo, quello che dicevi tu è molto giusto, cioè Barcellona è una città molto molto amata dagli italiani e infatti ce ne sono tantissimi, però io credo che Madrid è una città veramente rappresentativa della Spagna, della Castiglia, perché Barcellona è un posto molto internazionale e quindi neutrale, è una città molto bella, molto stimolante, però non è Spagna, e invece Barcellona è una città matura. In questo momento storico purtroppo non offre moltissimo sotto un profilo lavorativo, perché sappiamo tutti che la situazione in Spagna è drammatica, forse più che quella italiana, però è una città molto bella da visitare, è divertente, offre una grandissima offerta culturale, di arte, di musei. L'unica cosa che le manca è il mare, perché il clima infatti è insopportabile sia in inverno che in estate, però per il resto ha moltissime cose. E soprattutto è una città ricca di tradizioni, quindi nonostante le sue dimensioni di megalopoli riesce a mantenere comunque un'identità molto forte. E dall'altra parte del vetro è arrivato Davide Paolini, che è il nostro gastronauta, che sarà in onda dopo di me, e anche tu la cucina spagnola la racconti tanto nel tuo sito. Sì. E hai anche proprio una sezione dedicata alle tapas, come mai? Perché quando sono arrivata in Spagna ho avuto proprio uno sbalzo del metabolismo, in quanto qui friggono tutto. Io prendo spesso in giro il mio ragazzo dicendo che in Spagna è mondo fritto, perché appunto si frigge qualsiasi cosa, per cui all'inizio stavo sempre male perché tra alcol e frittura non sapevo più dove stavo andando. E quindi poi invece ho capito un po' il concetto di quella che è la cucina spagnola e quindi mi piace riproporla con delle semplici ricette sul blog, perché appunto spesso c'è il mito che in Spagna si mangia male perché soltanto in Italia si mangia bene, e a me invece piace pensare che ognuno è abituato ai propri alimentari, per cui ognuno trova ottima la cucina che conosce, però in realtà anche si mangia molto bene, un po' grasso però buono. Mm-hmm. E vivermadrid.it, quello che racconti, tra l'altro c'è un post proprio in home page anche sulla mare e la parola amore, che insomma è, direi per certi aspetti romantico, poi insomma ci sono anche un paio di curiosità che vi consiglio di andare a leggere, non le diffondiamo adesso via etere, però ecco, gli italiani che ti scrivono cosa ti chiedono? Cioè, l'italiano che decide di trasferirsi, di spostarsi all'estero per quello che è il tuo piccolo campione rappresentativo, insomma, sì, riesce ad andare al di là degli stereotipi, al di là dei luoghi comuni? Bah, veramente quando mi scrivono mi chiedono di tutto, fondamentalmente informazioni pratiche sui documenti, però tante volte mi chiedono anche cose un po' strane, tipo, non so, consigli di amore. Mi capita di ragazze che hanno conosciuto degli spagnoli e che mi scrivono per sapere un po' come è il genere maschile spagnolo in generale, come si comportano, e ricevo sempre delle mail molto divertenti. Io penso che poi le persone che vengono qui, e ne ho conosciute tante di persone che poi si sono trasferite e che mi hanno scritto tramite il blog e appunto ci siamo conosciuti, sono sempre persone molto coraggiose, perché come dicevo, soprattutto in questo momento storico non è la cosa più semplice decidere di spostarsi, soprattutto in Spagna. E quindi secondo me sì, si riesce a superare quello che è il canone, un po' il prototipo della Spagna, si mangia e si beve, perché è soltanto questo. Tornerai in Italia? Bah, chissà, fino a 4 anni fa non pensavo nemmeno di venire a vivere in Spagna, quindi non so proprio cosa rispondere a questa domanda. Ok. Federico, se mi permetti, volevo dire che sul blog proprio ieri abbiamo annunciato un concorso di fotografia dove in palio un check di Ryanair di 25 euro, quindi chiunque voglia partecipare può mandare un posto. Perfetto, fotografie scattate in Spagna, immagino. In Spagna, sì, okay. Il concorso si chiama Spagna Mia. Perfetto, www.viveramadrid.it, il blog di Francesca Nuzzaco, da Bari a Madrid, da Bari? Scusa, Bari? Sì, da Cassano, okay, delle Murze. Ok, a Madrid e la sua vita la racconta via rete. Grazie davvero e buon sabato, ciao Francesca. Grazie, ciao, ciao. Un bacione. E ciao. Chiudiamo qua questa puntata dell'Altra Europa, un grazie a Margherita Aina che, come ha scritto la puntata, oggi è anche il suo compleanno, quindi tanti auguri. In assistenza oggi Giorgio De Luca con 40 di febbre, Peter Bescapè alla parte tecnica, radio24.it è il nostro sito dal quale vi potete scaricare la puntata, tutti i link li trovate anche nelle nostre pagine ufficiali nel Facebook, potete anche iscriverci a l'altraeuropa@radio24.it. Noi ci ritroviamo qua sabato prossimo, ancora ciao da Federico Taddia.